Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Se questo era lì per rubare ed è morto, non mi spiace. Sono cattivo? Basta. Basta adesso con questo buonismo con la gente che ti entra in casa. Li facciamo arrivare, li mettiamo in albergo, ti entrano in casa e devi pure stare attento a non reagire in maniera esagerata, sennò ti indagano. E non poteva mancare, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, subito un commento del leader della Lega Salvini su quello che è successo a Vaprio da vicino Milano, questo fatto di cronaca terribile, è successo tra la notte e oggi poi con l'interrogatorio del 65enne, un pensionato che a Vaprio d'Adda nella sua villetta si è visto entrare questa notte un uomo, insomma lui ha visto un'ombra, una persona che camminava in casa e quindi con il suo regolare porto d'armi e una pistola ha sparato, ha ucciso questo romeno di 28 anni, fuori c'erano altri due complici che sono scappati e adesso quest'uomo è indagato per omicidio volontario. Inizialmente era stato indagato per eccesso di legittima difesa, poi invece nel pomeriggio c'è stata questa novità e diciamo che subito inevitabilmente si riapre il dibattito sulla questione della legittima difesa. Sapete che di casi ce ne sono stati diversi, naturalmente uno magari differente dall'altro, però ci si chiede che cosa si deve fare, come ci si deve comportare se effettivamente qualcuno, qualche malvivente piomba nella nostra abitazione di notte. Ne parleremo con, al di là della polemica politica che subito è divampata, di chi cavalca certi temi, ne parleremo con un'avvocata penalista esperta di questa materia. Ma voi potete cominciare subito a scrivere i vostri messaggi, le vostre opinioni su questo tema della legittima difesa e quali riflessioni fate intorno a un caso come questo, sempre attraverso la pagina Facebook di Effetto Notte oppure attraverso i messaggi al 349-238-6666. Lo ripeto, se sms al 349-238-6666 e se no c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte per voi. Poi ci occuperemo anche del caso Marino, ci sono nelle nuove puntate, ieri sapete che è stato ricevuto in procura per chiarire la vicenda degli scontrini, oggi ha fatto una conferenza stampa in cui ha esposto un po' le sue ragioni, le sue motivazioni, ha detto non sono indagato e la cosa particolare è che è ritornato a dire che ci rifletterà sulle sue dimissioni perché non è sicuro che siano definitive, però il PD ha fatto sapere che non c'è materia insomma per andare avanti. E poi c'è anche, ritorniamo sulla questione immigrazione, perché pare, questo è un allarme lanciato dall'Unione Europea, che i posti per i ricollocamenti soprattutto dall'Italia alla Grecia dei migranti siano già finiti, perché soltanto 6 paesi in Europa hanno dato disponibilità all'accoglienza, quindi questo è un altro tema che torna e ritorna. Ma intanto, mentre voi mandate, scrivete, pensate le vostre riflessioni, vi racconto in sintesi come sempre la giornata. La legge Severino, la Consulta rigetta il ricorso perché è infondato, il sindaco De Magistris è di nuovo in bilico. Legge di stabilità, Renzi annuncia, le case di lusso e i castelli pagheranno la TASI, dubbi del presidente dell'INPS Boeri sulle pensioni. Uccide un ladro in casa, indagato per omicidio volontario nel milanese, un 65enne, aveva subito 4 rapine in pochi mesi. La vicenda Marino, non sono indagato, dice il sindaco dimissionario e ribadisce, rifletto sulle dimissioni, ma il PD fa sapere che non ci sono le condizioni politiche per proseguire. Allarme dell'Unione Europea sui migranti, i ricollocamenti sono a rischio e sale la tensione nei Balcani. Siria, trapela il piano NATO, Assad 6 mesi e poi via, i media turchi citano il governo di Ankara. Sanità, secondo i dati Censis, il 41,7% delle famiglie rinuncia alle cure. Calcio per la Champions, in campo la Roma al Leverkusen. Partiamo quindi dalla legge Severino, dalla decisione della Corte Costituzionale che è arrivata non molte ore fa. La Consulta ha rigettato come infondato il ricorso presentato appunto sulla legge Severino e in particolare sulle norme relative alla sospensione degli amministratori locali condannati anche in via non definitiva per determinati reati. La questione era stata sollevata nell'ambito del caso del sindaco di Napoli Luigi De Magistris e proprio De Magistris, non solo lui, potrebbe avere pesanti ricadute questa sentenza su di lui e non solo su di lui, come ci conferma Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Ciao Roberta, sì, è così, nel senso che oggi si esaminava il caso di Luigi De Magistris, ma il verdetto di oggi della Consulta innanzitutto segna un po' la linea di quelle che saranno le future decisioni dei giudici anche per il ricorso di Vincenzo De Luca, il presidente della Regione Campania, ed evidentemente il pensiero dell'applicazione della Severino va anche al primo caso, sia pur si tratta di un caso con completamente diverso, che è quello dell'ex premier Silvio Berlusconi, decaduto proprio da senatore in virtù della legge Severino. Come dicevi, ricorso infondato. In sostanza vuol dire che la legge Severino per i giudici va bene così com'è e che quindi ora tornano a rischiare il sindaco di Napoli e il governatore della Campania. Smentendo le attese, con una camera di consiglio breve durata poco più di 2 ore, i giudici della Consulta hanno respinto come infondato il ricorso del TAR della Campania, che aveva lasciato al proprio posto sia Luigi De Magistris che poi Vincenzo De Luca, e aveva sollevato dubbi di legittimità costituzionale della norma che dispone invece la sospensione degli amministratori locali anche dopo una condanna di primo grado, come è stata quella di questi casi. Oggi appunto si esaminava il caso di De Magistris e questa decisione è stata per lui sfavorevole, mentre è andata nella direzione auspicata dal governo attraverso l'avvocatura dello Stato. Tuttavia, quello che a questo punto potrà succedere al primo cittadino partenopeo dipenderà anche dal dibattimento che si apre domani. Cioè, se da una parte il prefetto potrebbe di nuovo sospendere De Magistris, dall'altra, proprio domani per De Magistris si apre il processo d'appello per quell'abuso d'ufficio per cui era stato già condannato in primo grado quando era magistrato, quello per cui era scattata la Severino. Per cui se fosse assolto, in realtà... No, non è questo il problema, no. Non è questo il nodo è la prescrizione. Questa è la vicenda che gli ascoltatori ricorderanno quando De Magistris era ancora PM e si occupava dell'inchiesta Why Not e riguarda il modo in cui erano stati raccolti i dati. Il tema è che dovrebbe scattare la prescrizione. Se il sindaco deciderà di beneficiare della prescrizione, anche se fino adesso aveva detto che non ne avrebbe beneficiato, di fatto saranno azzerati gli effetti della legge Severino, perché non c'è più una condanna. Altro discorso, quindi a questo punto il sindaco resterebbe in carica. Questo però non c'è per De Luca, non c'è al momento un rischio prescrizione e per De Luca ancora non c'è neanche in calendario il momento in cui i giudici della Consulta decideranno e valuteranno il suo caso, che a questo punto però rischia di più di quanto effettivamente non rischi lo stesso sindaco. E poi c'è anche da far notare la differenza di mandato, nel senso che Luigi De Magistris è a fine mandato, mentre De Luca si è appena insediato, ed infatti l'ex governatore della regione Campania Stefano Caldoro attacca e dice che ora c'è il rischio che la Campania si trovi in una situazione di caos, cioè decapitata dei suoi vertici, il presidente della regione e il sindaco di Napoli, per di più in un momento, come sanno i nostri ascoltatori, assai difficile anche per la Campania, anche del maltempo, dell'emergenza, esatto. Insomma, sarebbe veramente un paradosso. Speriamo di no, che qualcosa insomma si aggiusti. Grazie Raffaella Calandra. Grazie a te, ciao. Ciao Raffaella. Adesso passiamo alla legge di stabilità, perché su Facebook il Presidente del Consiglio Renzi difende varie misure all'interno della manovra e sottolinea, a proposito della tanto controversa questione delle tasse sulla casa, i castelli, dice, a differenza di quanto si dice con tono scandalizzato, pagheranno, come per abolizione ICI del 2008, ironia della sorte, dice, furono parzialmente esentati dai governi successivi, possessori insomma di castelli di case di lusso, anche di centrosinistra, sottolinea Renzi, perché residenze storiche, ma le categorie catastali A1, A8, A9 avranno lo stesso trattamento della misura del 2008, dice Renzi. Quindi sottolinea che case di lusso e castelli pagheranno la TASI. Adesso invece parliamo di pensioni. È una platea decisamente articolata quella messa in evidenza dall'INPS. Sul fronte economico, quasi un pensionato su due percepisce un assegno medio inferiore ai 1000 euro mensili. Si tratta del 42,5%, pari a circa 6,5 milioni di soggetti. Tra questi, il 12,1% è al di sotto dei 500 euro mensili, con una prevalenza delle donne sugli uomini. Più in generale, dei 15,5 milioni di pensionati, 724.000, pari al 4,6%, hanno un reddito medio mensile di oltre 4.300 euro. Nei primi 9 mesi di quest'anno si registra intanto un boom delle pensioni di anzianità, quasi 110.000 rispetto alle 84.000 dell'intero 2014. E questo spiega l'INPS uno degli effetti della legge Fornero, che ha fatto slittare a quest'anno molti accessi alle pensioni. Sistema previdenziale quindi e legge di stabilità. Il presidente Boeri parla di interventi parziali. Si è scelta una strada di interventi ancora una volta selettivi e parziali. E sulla legge di stabilità, critiche delle opposizioni che chiedono il testo al governo. Se minoranza PD dicono Renzi tiri fuori il provvedimento, andiamo da Mattarella. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Cronaca: accusato di omicidio volontario il pensionato che ha sparato uccidendo un giovane ladro che era entrato nella sua casa a Vaprio d'Adda vicino Milano. Rispetto a una prima ipotesi, vi dicevo già prima, di eccesso colposo in legittima difesa, la procura ha formulato una nuova contestazione per poter svolgere tutti gli accertamenti, e di questo, come avevo anticipato all'inizio, parleremo tra poco in modo molto approfondito, in particolare del dibattito riacceso da questo fatto che resta comunque aperto da molto tempo, quello sulla legittima difesa. Vedo adesso un'agenzia di pochi istanti fa, giunta del Senato, via libera all'uso delle intercettazioni su Dell'Utri. Ecco, c'è stato un voto del Senato per utilizzare le intercettazioni relative al senatore Dell'Utri. E poi la vicenda Marino: non sono indagato, dice il sindaco dimissionario Ignazio Marino, tornando in una conferenza stampa oggi sulla vicenda degli scontrini, e ribadisce: rifletto sulle dimissioni, a sottolineare la possibilità di verifiche politiche sull'esistenza di un'eventuale maggioranza in consiglio. Però dal PD fanno sapere che non ci sono le condizioni politiche per proseguire. Anche di questo poi ci occuperemo a Effetto Notte tra poco. Mafia Capitale: il GUP di Roma ha respinto la richiesta di rito abbreviato per l'ex direttore generale dell'AMA, Giovanni Fiscon, accusato di corruzione nell'ambito dell'inchiesta su Mafia Capitale. Fiscon andrà quindi a processo il 5 novembre prossimo, quando comincerà il procedimento che vede alla sbarra oltre 40 imputati, tra cui Salvatore Buzzi e Massimo Carminati, appunto il processo di Mafia Capitale. E poi c'è da segnalare anche l'iscrizione nel registro di indagati di Ignazio Visco, il governatore della Banca d'Italia. È confermata questa iscrizione dagli atti della procura di Spoleto. Da un certificato di comunicazione e di iscrizione a registro di una parte offesa emerge che il governatore di Banca Italia è indagato dal 28 gennaio 2015 per concorso in corruzione, abuso d'ufficio e truffa e infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità. Nel tardo pomeriggio Visco è stato ricevuto dal presidente Mattarella al Quirinale. Allarme sui migranti: i ricollocamenti dei migranti sono a rischio perché sarebbero già esauriti i posti a disposizione per i profughi, e del resto finora la disponibilità all'accoglienza è arrivata soltanto da 6 paesi e per piccoli numeri. Anche su questo torneremo per fare un po' il punto su una situazione che continua a rimanere decisamente critica. Siamo all'estero, ci sono importanti novità sul fronte della guerra in Siria. Un memorandum d'intesa per scongiurare attacchi accidentali tra le rispettive aviazioni sui cieli siriani e per tentare di smorzare le tensioni dopo che più volte i jet con la stella rossa e quelli a stelle a strisce si erano trovati ad una pericolosa distanza ravvicinata, e dopo le accuse a Mosca da parte degli Stati Uniti e della NATO di compiere raid in Siria non per colpire l'ISIS ma gruppi di ribelli che combattono Assad. Russia e Stati Uniti dunque alla fine arrivano ad un accordo sulla sicurezza aerea. La firma di questo documento è un passo importante di significato pratico, commenta lo stesso portavoce del Ministero della Difesa russo, sottolineando che il memorandum regola sia i velivoli pilotati sia i droni e che non appena entrerà in vigore saranno stabiliti canali di comunicazione 24 ore su 24 tra i comandi dell'esercito russo e americano. Insomma, un punto di partenza per una futura cooperazione. Intanto, nelle ultime 24 ore è continuata l'offensiva dell'aviazione russa, che secondo il Ministero della Difesa avrebbe colpito 60 obiettivi del sedicente Stato Islamico e del fronte al Nusra. Alessandra Schepi, Siria 24 e Sole 24 Ore. Tra l'altro trapela un piano NATO sulla Siria. La NATO sta discutendo una exit strategy, insomma, per uscire da questa situazione, per il presidente siriano Assad, che prevede la sua uscita di scena tra circa 6 mesi nel tentativo quindi di risolvere la crisi siriana. Lo sostengono media turchi citando fonti riservate del governo di Ankara. Ora torniamo in Italia sul maltempo. L'allerta meteo nel sud Italia continua fino a giovedì. In Campania, la zona per ora più colpita, si iniziano a contare i danni. Si ipotizza il reato di inondazione colposa e la procura di Benevento apre un'indagine. Le alluvioni di queste settimane hanno messo in ginocchio la zona industriale Ponte Valentino del capoluogo campano. Per lo storico pastificio Rummo, fortemente danneggiato, è partita anche una campagna online che sta coinvolgendo tutta l'Europa. Il presidente di Confindustria Benevento, Biagio Mataluni, compie una prima quantificazione dei danni. Abbiamo stimato qualcosa come 500 milioni di euro di danni. Intanto oltre 200 volontari da Marche, Toscana e Umbria sono intervenuti in Campania, dove solo nelle ultime 24 ore sono caduti 100 mm di pioggia. Bombe d'acqua nel comune di Castelpagano e nuove esondazioni del Tammaro e del Fortore hanno creato altri disagi. Nel comune di Circello il sindaco Gianclaudio Goria chiede aiuto per l'immediato ripristino di 3 ponti crollati. Senza energia elettrica, senza comunicazioni, cellulari spenti, Circello conta circa 800 famiglie, credo che un 300 famiglie siano irraggiungibili. Allagamenti anche in Molise, in provincia di Irpinia, nel Napoletano, dove l'isola di Capri è stata flagellata da una tempesta che ha fatto cadere 170 mm di acqua in appena 5 ore. Da domani un nuovo ciclone si abbatterà su tutto il sud Italia e sulle isole. Federica Frola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Non buone notizie, insomma, e neanche per quanto riguarda la sanità. Quasi un italiano su due smette di curarsi oppure comincia a rimandare analisi cliniche e visite mediche. La colpa delle lunghe attese della sanità pubblica e dei costi ancora troppo elevati di quella privata, che spingono le famiglie a tirare la cinghia e quindi a risparmiare anche sui servizi di welfare che prima ritenevano indispensabili. Questa è la fotografia scattata da un recente rapporto del Censis, che evidenzia come nell'ultimo anno nel 47% delle famiglie almeno una persona ha dovuto rinunciare a una prestazione sanitaria. Per chiudere, c'è il calcio, c'è la Roma che è coinvolta nella Champions. Giovanni Capuano, come sta andando la partita? Anche qui non arrivano buone notizie. Ciao Roberta. Ciao. 32 minuti sul cronometro e la Roma è sotto 2-1 alle Leverkusen. È stata una partenza disastrosa quella dei giallorossi, come era già capitato a Minsk contro il Bate Borisov. Due gol subiti nei primi 20 minuti, tra l'altro due gol da due grandissime ingenuità difensive, nel secondo caso addirittura un vero e proprio errore, una doppietta di Hernandez. Il primo gol su calcio di rigore per un tocco di braccio di Torosidis, davvero ingenuo. Il secondo su un retropassaggio sbagliato, poi un fuorigioco sbagliato, Hernandez solo, una prima respinta di Szczęsny e poi il tap-in vincente a porta vuota. La Roma ha rischiato anche di andare sotto per 3-0, poi però improvvisamente, poco prima della mezz'ora, è arrivato il gol di De Rossi, un tocco ravvicinato sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Dunque la partita si è riaperta e adesso la Roma sta anche creando i presupposti per mettere in difficoltà la difesa dei tedeschi. Questa è una partita cruciale per la squadra di Garcia, che ha un punto in due giornate. Se perde questa sera ha più di un piede fuori dal girone di Champions, deve riuscire quantomeno a pareggiare, ma in realtà il risultato che servirebbe per incanalare dal punto di vista della Roma in maniera positiva il girone è la vittoria, e soltanto quella. La partenza, come abbiamo detto, non è stata buona, ma adesso la partita è cambiata. Grazie Giovanni Capuano, grazie, ciao Giovanni, poi ci riaggiorniamo. Intanto stavo anche seguendo, oltre a Giovanni, anche i vostri messaggi che stanno arrivando sulla pagina Facebook di Effetto Notte e al 349-238-6666 sul dibattito riacceso relativo alla legittima difesa da questo fatto di cronaca nera che è successo a Vaprio d'Adda. Land scrive sulla pagina Facebook: chi oltrepassa un recinto di una casa di proprietà privata è un territorio sacro come una zona militare assolutamente vietata, e così viene sparata senza pietà. Cristiano: vale in entrambi i casi il finir male, ma credo che la psicologia di chi agisce non metta in conto, nella maggior parte dei casi, esiti come questo di oggi. Laura: ovviamente il 65enne ha fatto non bene di più, è assolutamente necessario cambiare la regolamentazione riguardante l'autodifesa in casa propria. Stiamo scherzando? E così molti altri messaggi, ne parliamo tra poco. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo. Fluentis.com vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci qui, allora tra poco vi ricordo le notizie più importanti se avete acceso la radio in questo momento anziché puntualmente alle 21, e poi andremo sull'argomento, il primo argomento di questa sera con l'ospite che vi presenterò tra poco, e a proposito della questione di legittima difesa ha riaperto il dibattito dal fatto di cronaca nera avvenuto nel Milanese. Continuo i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte e anche al 349-238-6666, potete continuare a fare le vostre riflessioni. Intanto questi i fatti principali di oggi. Renzi difende la manovra, Ville e Castelli pagheranno, dice su Imo Itasi non cambierò idea, come ha fatto invece Berlusconi. Legge Severino, la consulta in serata ha respinto il ricorso di De Magistris, ora il sindaco di Napoli rischia una nuova sospensione, e anche il presidente della regione Campania De Luca. Marino resiste, il sindaco dimissionario di Roma, rifletto sulle dimissioni, dice, intanto però c'è l'altola del PD che dice non c'è materia, manovra per continuare. E poi il fatto appunto che andremo a trattare tra poco: uccide un ladro in casa indagato per omicidio volontario, i vicini dicono aveva subito già 4 rapine in pochi mesi. E poi incubo maltempo in Campania, ancora frane e allagamenti, Sannio in ginocchio, c'è la nuova allerta meteo al centro sud. E poi la svolta in Canada a Sinistra, trionfa il figlio d'arte Trudeau, valanga di voti per i liberali, prendono in Parlamento 184 seggi su 338, quindi con 39,5% dei voti. Quindi quindi dicevamo, il fatto di cronaca nera venuto a Vaprio Dadda vicino Milano, quest'uomo di 65 anni, un pensionato esasperato da ripetuti furti, pare che negli ultimi due mesi almeno 4 ce ne fossero stati nella sua abitazione, viene svegliato di notte, la scorsa notte, da rumori in casa, ha avuto naturalmente, come si può immaginare, paura per sé, per la sua famiglia, c'era con lui sua moglie, poi al piano di sotto il figlio con la nuora e con i bambini, e quindi lui ha detto di aver visto una sagoma nel buio, di aver sparato con la sua pistola regolarmente detenuta un colpo frontale molto da vicino. Il ladro, un romeno di 28 anni, è entrato nella casa con alcuni complici, arrampicandosi sino al terzo piano, è morto sul colpo. Adesso il 65enne, che in un primo tempo era indagato per eccesso di legittima difesa, è indagato ora per omicidio volontario, anche se viene precisato che l'iscrizione per omicidio volontario è un atto necessario per svolgere tutte le indagini sulla dinamica di quanto accaduto. È chiaro che però di fronte a un caso come questo, che non è naturalmente il primo, si riaprono tanti interrogativi. Fino a dove arriva la legittima difesa? Ma se uno si trova di notte con un estraneo in casa che entra per derubarti o per qualsiasi motivo, insomma, già ci si può immaginare lo spavento. Come bisogna, come si deve, come si può reagire? Ne parliamo con l'avvocata Paola Ghirardelli, che saluto. Buonasera. Buonasera a tutti. Avvocata penalista, autrice tra l'altro di Legittima Difesa, di questo libro, Quando e come difendersi nel rispetto della legge. Ce lo spieghi, avvocata, perché parte appunto chi sta cavalcando, magari fa un cavallo di battaglia di questa cosa, del fatto di difendersi con le armi. Mi pare che un esponente della Lega Bonanno abbia proposto di rendere più facile il porto d'armi, e la Regione Lombardia tra l'altro ha annunciato di voler coprire le spese legali di questo 65enne, invocando la giustificazione del gesto della legittima difesa. Ma guardi, sì, mi dica. No, prego. No, allora, sulle spese legali ovviamente non commento su quest'ultimo dato. C'è un dato di fatto. Allora, sulla questione delle armi mi sembra abbastanza evidente che l'esperienza americana ci insegna che un aumento della distribuzione delle armi in realtà non prevenga poi di fatto episodi o un accrescimento della violenza. Anzi, quindi, crea altri problemi per altri versi. Esatto, no? Sotto questo profilo non mi vengono assolutamente d'accordo queste valutazioni. C'è da dire una cosa sicuramente, e vale anche per quanto avete detto o quanto anch'io ho letto sulla iscrizione del pensionato nel registro degli indagati per omicidio volontario, che poi potrà diventare eccesso colposo di legittima difesa. Tenete conto che l'iscrizione effettivamente, come ricordava giustamente lei, è un atto dovuto a volte a garanzia della persona, nel senso che consente al pubblico ministero di svolgere una serie di indagini, tra cui anche perizie balistiche e quant'altro, per ricostruire effettivamente i fatti, e quindi questo non significa che poi il pubblico ministero, raccolti tutti gli elementi, non possa decidere per un'archiviazione del fatto. Quindi diciamo, questo anche perché il fatto è successo talmente a breve che mi sembra impossibile che il pubblico ministero abbia già deciso, potuto certo effettuare una qualificazione giuridica sulla base di una ricostruzione ancora così molto embrionale. C'è da dire un'altra cosa fondamentale, ed è quella del fatto che noi oggigiorno, soprattutto gli operatori del diritto, ci dobbiamo confrontare con le leggi in vigore in Italia. E quindi ad esempio, le faccio un esempio banalissimo, se noi oggi ci parlassimo da Parigi e non da Milano, qui non staremmo neanche a parlare di un reato, perché in Francia è prevista una causa di giustificazione a priori per chiunque spara o uccide colui che di notte si sia introdotto in casa sua. Quindi questo è assolutamente escluso che ci possa essere una qualunque responsabilità penale. Allo stesso modo, se fossimo a Madrid, l'intrusione di un soggetto nella propria abitazione verrebbe qualificata come aggressione ingiusta e come tale giustificativa di una reazione violenta nei confronti dell'intruso. In Italia non è così, nel senso che nel 2006 c'è stato un allargamento, diciamo un ampliamento per la legittima difesa con l'introduzione, adesso sono questioni tecniche comunque, di due commi, il secondo e il terzo dell'articolo 52 che disciplina la legittima difesa, per prevedere delle maglie un po' più ampie di tutela di chi si trova ovviamente ad affrontare un intruso in casa sua. Rimangono tuttavia dei requisiti, che sono ad esempio quelli della necessità di dover reagire con violenza, della proporzione della reazione che viene presunta nel caso in cui taluno si introduca a casa propria, ma questo non significa che chiunque si introduce in casa di un altro e questo ha un'arma, come mi sembra di capire in questo caso, legalmente detenuta, possa arbitrariamente decidere di fare fuoco. Questo lo dico in generale, non nel caso specifico. Certo, anche se, avvocata, diciamo che tutti noi ci immaginiamo, se qualcuno non l'ha vissuto, che se ci trovassimo, se sentissimo dei rumori di notte in casa e ci trovassimo un estraneo, si può immaginare intanto il terrore, lo spavento, come minimo uno si prende un infarto se non riesce invece a reagire subito. È chiaro che la paura è quella di essere colpiti, uccisi, feriti, violentati. Guardi, insomma, no? Quindi... Io tra l'altro nel mio libro, che lei ha citato, quindi mi permetto di citarlo, certo, a mia volta, legittima difesa, sì. Esatto, affronto proprio tutta una parte che riguarda l'aspetto psicologico. Quello che però ci tengo a sottolineare è che un conto è la legge, cioè noi dobbiamo confrontarci con delle norme che sono scritte in un certo modo. Spetta poi ovviamente all'interprete, in questo caso al magistrato, valutare caso per caso. Un elemento che spesso purtroppo viene sottovalutato, perché chiaramente la ricostruzione in un processo penale è a posteriori dei fatti, non tiene molto conto dell'aspetto psicologico, che invece è fondamentale. Se non sbaglio, ad esempio, prendiamo il caso di cui stiamo parlando, il pensionato ha sparato subito all'inizio, appena si è trovato l'ombra di fronte. Sì, dice poi che aveva questa ombra con una torcia puntata, esatto, verso di lui. Esatto, mi pare poi di aver letto, tra l'altro non dimentichiamo che è un soggetto che ha già subito precedenti, almeno da quello che si, esatto, da quello che si dice. Mentre nel caso successivo addirittura ha sparato, c'è scritto almeno così ho letto, dei colpi in aria, e benissimo ha fatto. Non ha ad esempio colpito chi si trovava nel suo giardino, e il che ovviamente gli avrebbe creato dei guai, perché colpire chi sta fuggendo chiaramente non è coperto. Sì, c'erano altri due complici del rumeno, esatto, che scappavano. Esatto. Anzi, se non ho letto male, ma sono sempre notizie di agenzia, pare anche che abbia tentato di soccorrere quello ferito. Esatto. Cioè. Quindi adesso francamente nel caso di specie è chiaro che la prima reazione non può che essere stata determinata dalla cosiddetta reazione che gli inglesi chiamano fight or flight, cioè fuga o lotta, che è una reazione assolutamente incontrollabile da parte nostra. È proprio il nostro cervello che di fronte a qualunque pericolo attiva una serie di elementi chimici che ci portano poi ovviamente ad attuare noi stessi degli elementi di difesa, che sono lo spavento, e quindi in questo caso sicuramente il signore che si è trovato di fronte, tanto più un pensionato, cioè quindi una persona che comunque anche per età, di fronte a un giovane di 28 anni, voglio dire, è sicuramente in una condizione di inferiorità. Non dimentichiamoci, tra l'altro, il requisito fondamentale della legge è che in casa si trovavano anche bambini e familiari, quindi l'utilizzo di un'arma per difendere se stessi e soprattutto l'incolumità altrui ragionevolmente rientra nel caso di legittima difesa. Questo secondo lei, avvocata, per chiudere, sarebbe necessario, sarebbe auspicabile, non so, modificare la norma sulla legittima difesa come qualcuno chiede, oppure no? Guardi, io credo, e l'ho detto anche nel libro, che in realtà le norme ci sono e sono abbastanza buone. Nella modifica o comunque nella riforma che è stata fatta della legittima difesa domiciliare del 2006, il legislatore ha mancato un po' di coraggio, nel senso che ha previsto appunto questi due ulteriori, ma non è andato fino in fondo. Secondo me dovrebbe avvicinarsi molto di più e molto più coraggiosamente ai modelli che le ricordavo poc'anzi, ad esempio, che ci sono in Europa, senza arrivare all'estremismo degli Stati Uniti, però sicuramente una tutela maggiore nei confronti di chi si trova a dover affrontare, purtroppo ormai sempre più spesso, queste, anche dovute alla crisi economica, queste situazioni, direi che forse sarebbe auspicabile, soprattutto da parte di chi invece di proporre maggior distribuzione di armi dovrebbe e ha la capacità e la potenzialità di poter intervenire sicuramente. Grazie avvocata Ghirardelli. Grazie a voi, buona serata. Buona serata. E poi invece stavo guardando i vostri messaggi, chi è pro, chi è contro, chi dice che bisognerebbe cambiare appunto il reato di legittima difesa, chi dice non sparerei mai per due anelli se qualcuno mi ruba in casa. E poi ci sono ascoltatori che non so se si fanno un cicchetto prima di scrivere, tipo Luciano e Fabio, uno che scrive l'opposto dell'altro, uno dice che trasmissione schifosa, dice Luciano, su un argomento in cui la popolazione non ha alcun bisogno di formarsi un'opinione, mi sembra invece di sì, per capire anche come reagire, come medesimarsi anche negli altri. Anzi, la conduttrice soffia sul fuoco e insiste su false riflessioni, facendo in pratica solo propaganda peraltro banale. Secondo Luciano, Fabio, il contrario, dice Robertina, sei sorpresa che in Francia e Spagna è prevista la difesa totale nei confronti di chi si introduce in casa propria, come se io fossi contraria? Insomma, Fabio e Luciano, vedete di essere più sobri quando ascoltate la trasmissione, mi raccomando, via l'alcol. Voi continuate con gli altri un po' più sobri con le vostre riflessioni, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sia al 349-238-6666, al di là che si sia pro o contro dopo. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Foto Industria Bologna 2015, la biennale dedicata alla fotografia industriale. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Pensa anche alle famiglie, pensa ai pensionati, ad esempio c'è il rinnovo della concessione per 22.000 sale giochi, slot machine, video poker, lotterie, che sono tutte indispensabili per una famiglia, se si vuole rovinare. In quest'ottica è giusto aumentare il contante fino a 3.000 euro, cioè nelle slot machine non è che ci metti l'assegno, ci metti i contanti. Questo è il commento di Crozza sulla 7 a proposito della legge di stabilità, ecco, un altro che apporta diciamo delle critiche, ma noi adesso ci riprendiamo su questioni più pragmatiche. Qui è Effetto Notte, Roberta Giordano sempre con voi, con me i vostri messaggi continuano ad arrivare sull'argomento della legittima difesa, a proposito di quello che è successo nel milanese Vaprio Dadda. Scrive Emanuele da Vicenza al 349-238-6666, numero dove mandare i messaggi: non voglio armarmi, ma dovrebbero istituire la proprietà privata, è un limite invalicabile, non è giusta l'eccesso di difesa in casa. E poi altri messaggi anche sulla pagina Facebook: secondo la legge italiana, se sorprendi i ladri in casa gli devi dire grazie, tornate a trovarci, io li ammazzo, e ne sono sempre più convinto. Poi Fabio da Genova: dovesse capitare a me, penso sia meglio un brutto processo che un bel funerale. E poi ancora sulla pagina Facebook Rosanna dice: sì, io ho subito furti in casa, conosco la devastazione che ne segue, conosco anche la rabbia che ti fa desiderare di eliminare il problema, tanto più che la polizia, se e quando li becca questi delinquenti, in un batter d'occhio li manda a spasso. Giampi scrive: uccidere no, perché poi passa i guai, ma qualche pallottola di gomma di dietro ci vuole, come, sai come brucia. Vittorio dice: immagino che a me sono entrati in casa i ladri due volte, uno l'ho anche rincorso un po', ma non mi sarei mai sognato di ammazzarli, ma siamo matti, cioè ammazzare uno per due anelli. Vi ricordo però adesso le notizie più importanti, poi passiamo a un altro argomento mentre voi potete continuare le vostre riflessioni su questo tema. La legge Severino: la Consulta rigetta il ricorso perché è infondato, il sindaco De Magistris è di nuovo in bilico. Legge di stabilità: Renzi annuncia le case di lusso e i castelli pagheranno la TASI. Dubbi intanto del presidente dell'INPS Boeri sulle pensioni. Uccide un ladro in casa, ne abbiamo appena parlato, indagato per omicidio volontario nel milanese, un 65enne, aveva subito 4 rapine in pochi mesi. La vicenda Marino, di cui parleremo tra pochissimo, Marino che dice: non sono indagato. E poi allarme dell'Unione Europea sui migranti: i ricollocamenti sono a rischio, sale la tensione nei Balcani. Calcio per la Champions, in campo la Roma a Leverkusen. Marino, una nuova puntata, nel senso l'iter che prosegue del sindaco dimissionario di Roma. Ieri sapete che è stato ascoltato in procura per chiarire la nota vicenda della nota vicenda delle note spese, dopo l'esposto del Movimento 5 Stelle e dei Fratelli d'Italia. Sono stato ascoltato, ho detto, come persona informata sui fatti, ma non sono indagato, e oggi in conferenza stampa ha ribadito, come nel giorno delle sue dimissioni, che ci deve pensare su queste dimissioni. Sentiamo passaggio. Non solo non ho utilizzato denaro pubblico a fini privati, ma in alcune circostanze ho utilizzato denaro personale a fini pubblici. E come prevede la legge, ho indicato nella lettera, quindi se l'ho indicato vuol dire che lo pensavo e lo penso, di riflettere e verificare. Mi pare che ho già risposto, se mi fate sempre la stessa domanda... Jacopo Iacoboni, buonasera Jacopo. Buonasera. Giornalista della Stampa e scrittore. Quindi mi sembra che, a parte il sindaco aveva detto su questa questione degli scontrini, non sono indagato, questo è un fatto, però ha un veramente, come avevo già detto, un tale grado di resilienza il sindaco Marino, credo nessun uomo di aver sentito, conosciuto, con questa capacità di riprendere la forma di se stesso, no? La resilienza è quella legge fisica per cui un corpo, anche ricevendo un grande urto, ritorna di nuovo nella sua forma normale. Lui, diciamo che ha una particolare qualità questa, piuttosto spiccata. Che ne pensi, Jacopo? Ma io devo dire che uno che fa il sindaco di Roma per forza di cose ne vede talmente tante che penso che si tempri molto anche il carattere, proprio al di là proprio delle abilità politiche e amministrative. Il fatto è che la storia di Roma è una bruttissima storia, perché c'è stato davvero un linciaggio sui media, ma anche un linciaggio da parte del suo stesso partito ai danni di Marino, che secondo me non è spiegabile né con, diciamo, il fatto che indubbiamente Roma è male amministrata, e tantomeno con la vicenda delle note spese, che, diciamo, per quello che conosciamo noi è una vicenda ridicola sia per l'entità sia per il livello delle contestazioni, in un paese in cui, diciamo, esistono comportamenti politici molto molto più laschi anche della classe politica di governo o anche dell'attuale opposizione. Diciamo che forse sono stati più severi con Marino che con chiunque altro, forse. Ma come dire, con chiunque altro che ha importi di note spese enormemente superiore e non è stato costretto a giustificare ogni singolo acquisto, peraltro in un ruolo come quello del sindaco di Roma, che, insomma, a cui secondo me deve essere consentita anche una certa discrezionalità, no? Nell'uso di rimborsi istituzionali. Detto questo, io ho il dubbio che noi non sappiamo tutto di questa storia, perché se di questa storia, diciamo, si deve sapere quello che è uscito finora ed è emerso finora, le dimissioni di Marino restano incomprensibili. Cioè, Marino, a mio giudizio, dovrebbe arroccarsi e fare la battaglia, se non altro per ottenere dal PD l'atto di dignità politica del PD di sfiduciarlo apertamente in consiglio comunale con una mozione di sfiducia. Si assumano la responsabilità di votargli contro. Diverso è se invece noi non sappiamo tutto, in questa storia ci sono degli elementi che non conosciamo, ma noi dobbiamo però stare ai fatti, non alle fanghiglie che girano a Roma sul conto di tutti e che vengono alimentate senza nessuna controprova, distruggendo le persone. E tutto questo secondo me fa parte della vergogna della politica, non certo della politica che uno si aspetterebbe dall'atteggiamento dei democratici. Chiudo, Jacopo Jacoboli, dicendo che secondo un sondaggio della 7 il Movimento 5 Stelle in caso di elezioni, secondo questo sondaggio, sarebbe al 31,8%, ci dovrebbe essere a primavera. Poi al secondo posto c'è il PD col 19,7%, quarto posto Fratelli d'Italia 9,1%, subito dopo Forza Italia con il 9%. Ma io credo che questa vicenda è facile dire che sia comunque pericolosa per il PD, perché in ogni caso si rischia di far andare via Marino, che appunto poi Marino clamorosamente sta anche risalendo molto nei sondaggi proprio personali su di lui, nel caso in cui ci fosse l'ipotesi di una sua lista. Sì, una lista Ignazio Marino 9,0 come per Forza Italia. Sì, ma anche che è incredibile se pensiamo che era al 4% poche settimane fa, e comunque è evidente che si ha la sensazione che sia stato montato qualcosa di più grosso, no, contro di lui. Ma al di là di tutto non si capisce per quale motivo il PD debba cavalcare un sentimento anche cieco per certi versi di antipolitica, che chiaramente gli si abbatterà contro, perché è evidente che avvantaggerà altre forze politiche, per esempio il Movimento 5 Stelle. E lo stesso Movimento 5 Stelle, secondo me, devo dire, non ho neanche capito se poi faccia davvero così tanto, smani così tanto per andare a governare Roma, che è una carta da pelare paurosa. Io penso infatti che, sarà interessante. Che chi ci va adesso si brucerà comunque, e la, sì, la mia facile previsione è che c'è una possibilità concreta che si arrivi a rimpiangere, se non l'amministrazione di Marino, la sua lontananza personale dagli affari e dagli intrecci, dagli intrighi. Sarà proprio interessante vedere cosa succederà a Roma nei prossimi mesi, soprattutto a primavera. Grazie Jacopo Jacoboni. Ciao Jacopo. Grazie. Ciao Viabilità. Stufe, caldaie, termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Notte. Le notizie in 60 minuti. Le più importanti sono l'esito della sentenza della Consulta sulla legge Severino, che rigetta il ricorso perché è infondato. Il sindaco De Magistris è dunque di nuovo in bilico. Legge di stabilità con Renzi, che annuncia su Facebook che le case di lusso e i castelli pagheranno la Tasi. La vicenda di Vaprio Dadda: un uomo uccide un ladro che entra in casa, un 65enne, aveva subito 4 rapine in pochi mesi, adesso è accusato di omicidio volontario. E poi per il calcio, in Champions la Roma Leverkusen 2-2. Europa 24 notte. Secondo la stampa inglese e americana, a breve, forse già domani, la Commissione europea annuncerà la propria decisione sul tax ruling, gli accordi cioè ad hoc sul fisco tra singoli paesi e multinazionali, che vengono infatti considerati aiuti di Stato illegali nel caso in cui le società ricevano condizioni di favore rispetto ad altri gruppi. Così ci spiega Sebastiano Simontacchi, esperto dello studio Bonelli Erede per il Financial Times. Le prime società a rischiare il pagamento di milioni di euro di imposte arretrate sono l'americana Starbucks, che paga le tasse in Olanda, e Fiat Chrysler. Si avvicina la decisione della Commissione europea su quei paesi che hanno siglato accordi ad hoc sul fisco con le multinazionali, garantendo alle società condizioni di favore rispetto ad altri. In questo caso, infatti, secondo Bruxelles, i cosiddetti tax ruling diventano aiuti di Stato illegali. Per la stampa inglese e americana, le prime società a rischiare il pagamento di milioni di euro di imposte arretrate sono l'americana Starbucks, che paga le tasse in Olanda, e Fiat Chrysler in Lussemburgo. Nel mirino ovviamente anche gli altri casi noti da tempo alle cronache, come Amazon, sempre nel Granducato, dove ricordiamo è scoppiato lo scandalo LaxiLeaks, ed Apple in Irlanda. Due i temi sul tavolo, spiega Stefano Simontacchi dello studio Bonelli Arede. Da un lato c'è il tema della trasparenza tra gli stati e quindi reciproco scambio degli accordi che prendono con i contribuenti. Dall'altro, con riferimento ad alcuni casi specifici, vedi il caso Starbucks e dell'Olanda, la Commissione europea prenderà posizione su se questi ruling concessi costituiscano o meno degli aiuti di Stato. In tal caso il paese che ha concesso l'aiuto illegale dovrà chiedere il pagamento delle tasse arretrate alla società che ne ha beneficiato, anche perché bisogna chiarire un aspetto importante, sottolinea l'esperto. In realtà il soggetto che si è comportato in modo unfair è lo Stato, quindi tantissime di queste pianificazioni fiscali aggressive non si sarebbero potute porre in essere se gli stati tra di loro si fossero comportati in maniera fair. Per evitare che tali pratiche si ripetano, lo scorso 6 ottobre i ministri finanziari dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo per l'introduzione, a partire dal 2017, dello scambio automatico delle informazioni tra governi. Dalle nuove regole retroattive per 5 anni sono escluse le aziende con un fatturato sotto i 40 milioni di euro. Un passo avanti importante, ma non ancora soddisfacente. Si tratta di intese tra paesi e governi, mentre la Commissione dovrebbe avere un ruolo di garante. Questo è il commento di Mercedes Bresso, coordinatrice della Commissione Affari Costituzionali al Parlamento Europeo per i Socialisti Democratici. Chiederemo quindi che la Commissione venga ripristinata sia nell'accesso al contenuto delle informazioni, quindi degli elenchi delle aziende con le quali sono stati fatti questi accordi opachi, e sia che sia l'autorità della concorrenza europea a garantire la correttezza delle informazioni e delle politiche fiscali nazionali, cioè che ci sia un terzo soggetto controllore. La palla passa quindi al Parlamento europeo. Livia Zancanera, Radio 24, il Sole 24 Ore. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Riprendiamo adesso il tema dell'immigrazione. Non se ne è parlato in modo così martellato in questi giorni, ma i problemi continuano e le migrazioni anche continuano. E poi c'è questo allarme dell'Unione Europea di oggi, che la ricollocazione potrebbe già subire un blocco, la ricollocazione di migranti, quelli dall'Italia e dalla Grecia, perché i posti sono già esauriti. E tra l'altro ci sono soltanto 6 paesi dell'Unione Europea che hanno risposto a questa richiesta di offerta di accoglienza. In più Frontex, che è l'agenzia europea che si occupa di controllare i confini dell'Unione Europea, aveva chiesto chiesto almeno 775 guardie ai confini e i paesi ne hanno per ora date la disponibilità di 291. Quindi diciamo continua questa riluttanza di molti stati a dare il proprio contributo, a fare la propria parte. La Croazia poi che apre e chiude le frontiere, l'Ungheria che ha già deciso di chiudere, la Slovenia che si sente invasa e quindi ha deciso di far intervenire l'esercito. Ne parliamo con Matteo Villa, ricercatore dell'ISPI per l'area Europa. Buonasera Matteo. Buonasera a voi. Il caos quindi prosegue, si sono fatti tanti vertici straordinari, mica straordinari, però diciamo la situazione quella è. Tra l'altro l'Olanda, ho letto oggi, che ha deciso di scoraggiare i richiedenti asilo dicendo sì, se venite guardate che poi vi mettiamo in centri sportivi, in tende, starete piuttosto male. Eh sì, è quello che aveva già fatto la Danimarca tra l'altro qualche mese fa, mettendo cartelloni per i Balcani e anche in Turchia, dicendo più o meno la stessa cosa. E qui in effetti le criticità si sommano sempre di più. Appunto, forse la cosa più interessante è la questione dei ricollocamenti. E lì, nonostante il ministro dell'Interno Alfano giustamente continui a dire che questo è un grande successo per l'Italia, lo è sulla carta, ma come diceva lei, siamo ben lontani dai numeri che ci servirebbero per ricollocare veramente i migranti. Dalle notizie lo dicevano anche oggi, a noi spetterebbero una ricollocazione di almeno 35.000 migranti, vuol dire in su due anni, vuol dire 1.500 al mese, siamo a neanche 100 in due settimane e soltanto su sei paesi, sì, siamo molto lontani da quello che si prometteva. La stessa cosa, i colli di bottiglia lì nei Balcani occidentali, quindi insomma prima in Croazia, poi adesso tra Croazia e Serbia e poi tra Croazia e Slovenia, peggiorano ed è la dimostrazione che il sistema fa un po' ancora tutte le parti. Abbiamo individuato alcuni paesi a maggio che richiedevano ricollocamenti, che erano Italia e Grecia, poi avevamo aggiunto l'Ungheria si è rifiutata, rimangono dei ricollocamenti da rieffettuare e abbiamo insomma dei vuoti normativi che senza un meccanismo permanente, non di emergenza, l'Unione Europea non può toccare e quindi insomma rimaniamo ancora nel limbo. E c'è ancora molto molto da fare purtroppo. Grazie Matteo Villa dell'ISPI. Grazie a voi. Grazie. Ci risentiamo alle 22.